Ma secondo lei è in grado di dire quello che dicono che abbia fatto? Cioè, di avere, per esempio, che ne so, 4-5 rapporti in una stessa notte? Guardi, io per la verità queste cose se non le vedo non ne posso confermare. Quindi Però sarebbe in grado di su farlo, questo non mi sento. sarebbe in grado di avere una super attività sessuale, Berlusconi, secondo lei? Ma io sono convinto che lui, come in tutte le cose, le torna a ripetere, io non devo leccare, diciamo, niente a nessuno, quindi Sì, è no, certo. veramente, ce la potrebbe fare. Ce la potrebbe fare a avere quattro. Ad avere un'attività, diciamo, superiore alla media. Superiore alla media, cioè Ma anche. ecco, c'è una Entriamo nel questione. dettaglio, scusi, anche 4-5 al giorno, insomma. Qua non lo posso dire Qua io, non si può dire. veramente direi una fesseria. Però un'attività sessuale superiore alla media ce la potrebbe fare. Ma scusi, con Sì. l'aiutino di qualcosa oppure no? Non ho capito Con questa l'aiuto di domanda. qualcosa ci sono varie possibilità, Guardi, come lei io per sa, esempio, oppure no? io le dico che ho fatto adesso che, diciamo, dopo tutto quello che ho avuto, Sì. ho ripreso blandamente la mia attività sessuale e mi sono aiutato con qualcosa e Cioè già sta cosa? funzionando. Cosa? E le assicuro che tutte queste fesserie che dicono sulla pericolosità, si tratta invece di trovare quella giusta e senza esagerare. Senza E esagerare. non esagerare, soprattutto non esagerare. Ma allora, E scusi, professore. lei scusi, dunque si sta parlando di pilloline, no? Beh, sia di pilloline sia anche di iniezioni. Di iniezione, ma lei ha mai prescritto delle pilloline o delle iniezioni anche a Berlusconi? Immagino di sì a No, questo non punto. vedo in questo terreno non mi sono mai addentrato, Vabbè, per la però lui verità. avrà chiesto dei consigli, posso prendere questo, posso non prenderlo, fa bene, fa male. Certamente, certamente. E ho fornito la mia esperienza medica personale, però di cui naturalmente non posso parlare perché No, lei già è certo. una persona.